Stasera sono qui con noi Andrea Bonoldi, presidente dell'associazione, Andrea Sarri, che è il relatore, che ci parlerà appunto questa sera dell'argomento in oggetto, e Sigrille Clementi, che è la coordinatrice dell'associazione. Io vi ringrazio della vostra presenza, vi saluto da parte dell'assessore Tomasini. La biblioteca organizza questi incontri perché in questo modo vuole favorire l'incontro con il libro, l'incontro con l'autore, e aprire anche degli scenari, degli stimoli per la lettura, per l'approfondimento di alcune tematiche. È un modo come un altro, insomma, per invogliare anche a leggere, e questi appuntamenti sono praticamente settimanali, come avrete visto, o anche bisettimanali. Andiamo dagli argomenti storici alla narrativa e anche alla poesia, come è successo nelle puntate precedenti, visto che marzo è il mese così che viene dedicato alla poesia. Questa sera invece ritorniamo nel discorso dedicato alla storia più puramente, ecco, affrontata in maniera più scientifica, e cedo volentieri la parola ai nostri relatori, ringraziandoli ancora della loro disponibilità. Grazie, grazie a te Valeria, grazie per l'ospitalità. Beh, il piatto forte della serata è naturalmente la relazione di Andrea Sarri sul vescovo Geisler, ma io ne approfitto un po' spudoratamente per fare uno spot pubblicitario anche per la nostra associazione, magari per spiegarvi un po', raccontarvi un po' quale è stato il percorso che noi abbiamo seguito in questi anni di attività. Come si diceva prima con Valeria, sono 20 anni che Storia Regione Geschichtung Trigione è attiva in questo territorio, e l'obiettivo che l'associazione si è posta fin dall'inizio è quello di cercare di fare un po' di innovazione nel campo della storia territoriale. Un campo che, come sappiamo benissimo tutti noi, è un campo molto, molto difficile, perché la storia locale è veramente una brutta bestia in qualche modo, no? Perché è un argomento che suscita passioni, interesse, perché la sentiamo molto vicina, ed è un argomento che in realtà poi può essere utilizzato per molti scopi, strumentalmente, come una clava nel dibattito politico, e in particolare nella nostra terra, insomma, questa dimensione dell'utilizzo strumentale della storia è stata una dimensione particolarmente sviluppata, che tra l'altro ha costituito un problema ancora più grosso per il fatto che sul territorio non esiste un'istituzione che scientificamente affronti le questioni storiografiche. Non c'è un'università con una facoltà di storia, non c'è un istituto che faccia ricerca storica. Se noi confrontiamo quello che c'è a nord e a sud, il Trentino e il Tirolo, il Bundesland Tirol, troviamo diverse istituzioni che si occupano di storia. Qui da noi, dove appunto la storia costituisce un elemento costante di dibattito e di confronto, sono mancate invece istituzioni di questo genere. Per cui è stato relativamente facile anche strumentalizzare la storia, per il fatto che non esisteva una produzione che aveva affrontato le vicende passate del nostro territorio in maniera scientifica. E quindi il Geschichtung Trigione nasce un po' anche con l'intento di svecchiare la storia territoriale, non tanto con l'idea di fare storia locale, quanto con l'idea di portare metodologie che la storia regionale internazionale adottava altrove, per permettere anche delle comparazioni con le vicende esterne. Perché questa è poi un'altra caratteristica che è un po' tipica del discorso pubblico in generale sull'Alto Adige, cioè l'idea che siamo un'entità straordinaria, assolutamente diversa da tutto quello che succede intorno, e che quindi non sia possibile fare delle comparazioni, il che è, come ben sappiamo, assolutamente sbagliato. E quindi la nostra idea, insomma, è stata in questi anni, e penso che, insomma, un pochino abbiamo contribuito anche noi a svecchiare questo panorama, tra l'altro in collaborazione sempre più stretta anche con istituzioni che hanno portato avanti nel loro ambito di competenza una visione nuova del discorso storico in Alto Adige. La Biblioteca Claudio Augusta è una di queste istituzioni, perché fin dall'inizio ha fatto una scelta molto netta, non è una biblioteca generalista, è una biblioteca che ha scelto appunto di raccogliere materiale documentario e bibliografico sulle vicende del territorio, e anche promotrice poi di incontri come quello di stasera, e quindi da questo punto di vista qui si inserisce in questa nuova tendenza. E al di là dell'importanza particolare, quindi, che ha la storia locale sul nostro territorio, c'è anche una questione più generale del ruolo che può avere la storia nel discorso pubblico, perché noi oggi siamo costantemente bombardati da una massa molto grossa di informazioni che ci portano una visione della realtà che molto spesso è una visione distorta da quelle che sono le logiche che sono legate all'industria dell'informazione. L'industria dell'informazione oggi, proprio per il fatto che le notizie arrivano da tante parti, è portata a utilizzare un marketing abbastanza aggressivo, nel senso che le informazioni che contano sono quelle più eclatanti, quelle più urlate, quelle magari più pittoresche, se vogliamo, più violente, perché sono quelle che si vendono meglio sul mercato dell'informazione. Quindi la nostra percezione della realtà è un po' distorta anche da queste scelte che l'industria dell'informazione fa. La storia ha un passo un po' diverso, la riflessione storiografica ci consente di vedere le cose forse con un tempo un po' più lento, con un po' più di distacco, e magari ci abitua, insomma, a pensare all'evoluzione della realtà in un modo un po' differente da quello che il sistema dell'informazione ci propone tutti i giorni. Consentitemi di soffermarmi un po' sul numero, questo che è l'ultimo numero di Storia e Regione, nel quale è contenuto poi il saggio su cui ci intratterrà Andrea. Il numero porta come titolo Alteritäten, Identitäten, alterità, identità, e affronta un tema, quello dell'identità, che gli storici tendono a vedere con un rapporto di amore e odio in qualche modo. Amore perché chiaramente l'identità individuale, collettiva, è uno dei motori dell'azione storica. Insomma, se non capiamo quali sono gli universi di valori di riferimento dei soggetti che operano nella realtà storica, non riusciamo neanche a capire quali siano le ideali motivazioni che spingono a compiere determinate azioni. Odio perché l'identità è spesso stata usata anche in termini molto strumentali. Insomma, il discorso sull'identità, l'identità è uno dei totem oggi del discorso pubblico, ha assunto molto spesso derive che hanno un retrogusto decisamente antipatico. E poi per gli storici c'è un problema di natura metodologica, perché riuscire a fare un discorso accurato sull'identità del passato è complicato, perché noi storici quello che possiamo fare è gettare una piccola lama di luce nel passato, e la lama di luce è determinata dalle fonti che riusciamo a trovare, cioè i documenti che ci raccontano la storia che è passata, ma intorno c'è il buio, e questi documenti ci dicono quello che la natura del documento può dire. Cioè, un documento fiscale ci racconterà una storia, una lettera personale ce ne racconterà un'altra, però noi non abbiamo una visione completa di quello che è successo nel passato. E proprio sulle questioni dell'identità questa ricerca è particolarmente difficile. Noi possiamo essere fortunati e trovare un diario, delle lettere personali che ci aiutano a vedere, a scavare un po' di più nella personalità dei protagonisti delle vicende del passato. Però questi documenti non sono così diffusi e quindi non è facile fare un discorso sull'identità che dal punto di vista storico. In questo numero abbiamo cercato un po' di fare il punto su alcuni temi. Un numero particolare anche perché ha messo, scusatemi il gioco di parole, un po' in discussione anche l'identità della rivista stessa, nel senso che per la prima volta abbiamo dei curatori e gran parte degli autori del numero che non sono storici di professione, ma sono scienziati sociali, antropologi, che affrontano quindi il tema dell'identità da un loro particolare punto di vista. In qualche modo il rischio che è legato a questo tema, secondo me, è stato aggirato abbastanza bene anche con il fatto che il titolo del lavoro è un titolo che mette a confronto due coppie in qualche modo dialettiche, alterità e identità. Già parlare di alterità aiuta in qualche modo a definire meglio il tema che abbiamo, perché mette di fronte, cerca di definire l'identità proprio attraverso il confronto con il diverso, che nella nostra terra sappiamo è un tema che sappiamo essere particolarmente importante. Beh, gli autori curatori di questo numero sono Elisabeth Tauber, che è una giovane antropologa che opera all'Università di Bressanone, e Walter Lorenz, che è il rettore dell'Università di Bolzano, che è uno scienziato sociale e che ha scritto il primo saggio, un saggio dove si affronta una questione molto interessante, che è quella del rapporto fra identità e cittadinanza. Da una parte abbiamo la dimensione, diciamo, della definizione del singolo a seconda di quelle che sono le sue caratteristiche culturali, le appartenenze linguistiche, eccetera, e dall'altra i diritti che sono legati invece al fatto di essere membro di una comunità. Ecco, quindi il numero è ricco di suggestioni che vengono da direzioni diverse, quindi può andare incontro a quelle che sono le curiosità di un pubblico multiforme. Il saggio di Andrea, da questo punto di vista, che si occupa di una figura molto importante nella vicenda storica altoatesina del Novecento, una figura che ha vissuto una fase molto drammatica della storia, che si è trovata a svolgere una funzione importante e delicata in un momento pieno di contraddizioni, è importante perché una delle dimensioni che sono state anche analizzate è quella, la dimensione religiosa, come la dimensione religiosa sia una componente in negativo e in positivo dell'identità sudtirolese. E quindi direi che è senz'altro il caso di ascoltare con attenzione il contributo di Andrea. Io ringrazio dello spazio che è stato concesso per la presentazione del volume, il volume naturalmente che si trova ad acquistare in libreria, quindi invito chi volesse approfondire la questione naturalmente ad accedere a questa possibilità. Andrea. Ok, grazie Andrea. Mi alzo, preferisco stare in piedi così poi posso manovrare anche il telecomando, perché Patrick Urru della Biblioteca Padre Augusto ha preparato alcune immagini che ci potranno aiutare, no, a seguire questa chiacchierata. Insomma, ecco, un saluto anche da parte mia, quindi anche da parte mia. Il microfono? È meglio usare il microfono? Sì, meglio? Allora sì. Okay. Tanto un saluto allora e un ringraziamento anche da parte mia a Valeria e al personale della biblioteca che hanno consentito allora a Geschichte und Religion, storia e regione, di presentare l'ultimo numero e presentare i risultati di questa ricerca. Ecco, Andrea ha parlato appunto di documenti, di fonti. Le fonti sulle quali ho lavorato io sono fonti particolari, nel senso che si tratta di testi scritti, in parte editi, in parte no, destinati alla predicazione. Sono testi delle omelie e quindi delle prediche che il vescovo Geiser tiene in varie occasioni durante il suo episcopato, e le lettere pastorali. Sono un testo a stampa, pubblicato dal bollettino della diocesi, normalmente nel periodo della quaresima. Diciamo che dai tempi della riforma del Concilio di Trento i vescovi sono tenuti a fare tutta una serie di operazioni per amministrare il loro territorio e gestire l'attività pastorale, e la lettera pastorale rivolta al clero e ai fedeli della diocesi, normalmente appunto nel periodo della quaresima, mercoledì delle ceneri viene pubblicata, serve per orientare clero e fedeli sui temi della vita pubblica. Quindi si tratta di fonti che ci possono fornire informazioni sull'orientamento culturale, sulla ideologia religiosa che i vescovi utilizzano per misurarsi di fronte ai fenomeni sociali, ai fatti storici, di fronte agli eventi della società e così via. E nel nostro caso questa sera cercherei di fare un piccolo percorso a tre tappe. Uno così introduttivo, conoscere un pochino insomma, il personaggio, di cui appunto ha detto qualcosa Andrea, è stato vescovo a Bressanone dal 1930 al 1952, quindi ha attraversato gli anni del fascismo, gli anni della guerra, gli anni delle opzioni e il primo dopoguerra, e conoscere quindi un po' il personaggio e la realtà diocesana. Poi in un secondo momento farei una breve carrellata così nei secoli, diciamo, per cercare di conoscere, di vedere quali sono stati nell'ambito cristiano e nella fattispecie cattolico, da parte appunto del pensiero cattolico, del magistero cattolico, gli orientamenti sul tema della pace e della guerra, no? Quindi sul tema della teologia della storia e della teologia della guerra. Terza e ultima fase, analizzando un paio di pastorali, presentando brevemente i contenuti di un paio di lettere pastorali e di due o tre omelie, cercare di conoscere quindi da vicino il pensiero di Geisler e vedere come Geisler quindi applica nella realtà di Bressanone l'insegnamento del Magistero Pontificio. Questo un po' è i limiti molto stretti, se volete, appunto del mio contributo, e su questo appunto ho cercato appunto di tirare poi alcune provvisorie, molto provvisorie conclusioni. La ricerca poi ha bisogno di essere ulteriormente approfondita, è appunto una piccola lama di luce su un materiale di fonti anche molto vasto, perché le pastorali sono una all'anno circa, invece le omelie che sono conservate nell'archivio diocesano di Bressanone sono molte di più, sono bei fascicoli di omelie in lingua tedesca e di omelie anche in lingua italiana, non pochissime per la verità. Allora faccio partire la macchina. Eccolo qua, così. Ok. Ah sì, giusto. Per accendere. Ecco, grazie Elena. Perfetto. Ah, questo sì. Ecco, allora conosciamo poi il personaggio e la realtà della diocesi. Partirei da quest'ultima brevemente. La diocesi di Bressanone non esiste più in realtà, possiamo proprio metterla agli archivi, nel senso che è esistita fino all'estate del 1964, cioè è esistita fino a quando, sotto il pontificato di Paolo VI, fu istituita la diocesi di Bolzano, Bressanone, i cui confini furono fatti coincidere con i confini della provincia di Bolzano negli anni appunto della formazione del pacchetto del futuro statuto di autonomia. La diocesi di Bressanone, quindi quando il Regno d'Italia annette l'Alto Adige, perde una buona parte dei suoi decanati, quelli posti a nord del Brennero, li perde tutti naturalmente, il confine di Stato appunto spacca anche la realtà diocesana, e la diocesi di Bressanone comprende poi anche una serie di decanati bellunesi, di Vinalongo, Ampezzo, Colle Santa Lucia, comprende poi i decanati in Valbadia, la Valbusteria, San Candide Prunico, Campo Turris in Valurina, Stelvio e Malles in Valvenosta, e basta. Gli altri decanati, quelli mistilingui, di Merano con la Val d'Assiria, Bolzano, la Val di Sarco fino a Chiusa, tutta la Bassa Tesina, appartengono fino appunto al 1964 alla diocesi di Trento, e quindi sarà soltanto appunto dal 64 in poi che Bolzano diventerà sede vescovile. Ecco Geisler, quello che vedete è il ritratto ufficiale del vescovo Geisler, che è appunto conservato, che è esposto nel palazzo vescovile di Bressanone, vicino al Palazzo del Duomo, dove c'è tuttora comunque l'archivio con le carte che interessano appunto agli storici. Geisler era un tirolese del nord, era nato nella Zillertal. Tra l'altro c'è un contributo di Florian Huber nel nostro ultimo fascicolo su una vicenda di repressione del dissenso protestante proprio nella Zillertal, la valle in cui nasce Geisler. Nasce nell'82, si laurea in filosofia e teologia, viene ordinato sacerdote a Roma nel marzo del 1910. Ricopre per alcuni anni l'incarico di cooperatore, vice parroco, in alcune parrocchie della diocesi. Nel 14 fa carriera, diventa segretario del vescovo Franz Egger, che poi è un omonimo del vescovo Wilhelm Egger della diocesi di Bolzano, Bressanone, morto pochi anni fa, ma non parente. Bene, poi Geisler dal 22, quindi dall'anno in cui Mussolini va al potere, diventa docente, insegna storia della Chiesa al seminario di Bressanone, al seminario maggiore di Bressanone, e nel 30, dopo 3 anni di vacanza episcopale, dopo 3 anni in cui la diocesi di Pordenone è senza vescovo, il predecessore Raffl era morto nel 27, le tensioni tra autorità statali, centrali, romane, locali, bolzanine da una parte, Curia di Bressanone e Santa Sede dall'altra, di fatto tengono la diocesi di Bressanone in stand-by. Ci sono tensioni forti perché il clero locale è impegnato nella difesa della identità etnico-linguistica e religiosa appunto della nuova provincia, e di conseguenza le tensioni etnico-nazionali, etnico-politiche tra Chiesa e regime fascista si fanno sentire. Solo nel 30, appunto, dopo tutta una serie di accertamenti che vi risparmio, in qualche maniera arriva da Roma appunto il disco verde affinché venga nominato Geisler, no, alla guida della diocesi. I rapporti all'inizio tra Geisler e le autorità locali non sono poi malvagi, poi hanno dei momenti difficili, ce li hanno magari quando dopo il 33 arriva il nuovo prefetto, Mastro Mattei, che prende il posto di Marziali. Sono poi difficili negli anni delle campagne delle sanzioni che l'Italia fascista, avendo aggredito l'Etiopia, subisce appunto dalla Società delle Nazioni. Geisler è forse l'unico vescovo, assieme a quello di Firenze, a rifiutarsi di benedire gli anelli di ferro che devono essere donati alla patria al posto degli anelli nuziali donati nella giornata della fede fascista nel dicembre del 35. Geisler poi in seguito alle opzioni del 39, con il suo vicario, che veniva da Cortina d'Ampezzo, si chiamava Pompanin, opta, come tedesco dice, non come pastore, non come vescovo, opta per la cittadinanza tedesca, opta per il Reich. Rimane poi qui, però di fatto questa è un'azione appunto che spacca tra l'altro la chiesa locale, perché la maggior parte del clero di base, di parroci, invece è dalla parte dei Dableiber, cioè dalla parte di coloro i quali nel 39 scelsero appunto di rimanere nella Heimat, no? In Alto Adige. Quindi una spaccatura tra il vertice della chiesa e la base, potremmo dire. E Geisler attraversa comunque, rimane a Bressanone durante tutti gli anni della guerra e quindi gestisce i rapporti le autorità fasciste prima e poi con l'occupante nazista dopo l'8 settembre del 43, quando tre province dolomitiche, noi Trento. Fischia un po'? Fischia ancora di più. Provo? Qui vicino? Ecco. Ma anche senza. Ma forse premi di... No, sì. Abbiamo ogni volta di qua e là. No? Sì. Ho visto anche le indirie. Sì, allora. Meglio così, e va bene. Allora provo andare avanti. Allora. E dunque sì, gestisce i rapporti con le autorità fasciste italiane fino all'8 settembre e poi si trova a dover gestire i rapporti con l'occupante nazista quando viene creata l'operazione Zone Alpenvorland, e quindi quando le tre province dolomitiche di fatto, no, diventano province del Reich, sono annesse di fatto al Terzo Reich nazista. Questa è un'immagine. È una delle ultime immagini di Geisler. C'è Geisler col bastone, ormai settantenne, con a fianco un giovanissimo Josef Gargitter, che è il suo successore. Siamo nel 52, Geisler appunto finisce il suo mandato episcopale nel 52 per ragioni appunto di salute. Gargitter è il suo successore. Geisler morirà poi pochi mesi dopo. Questa è una foto dell'aprile, e qui Geisler muore nel settembre del 52. Gargitter quindi sarà l'ultimo vescovo di Bressanone e poi dal 64 il primo vescovo, no, di Bolzano-Bressanone, dopo appunto il cambiamento dei confini diocesani. Ecco, questo così come limiterei a questo appunto come carrellata iniziale, spero di non aver corso troppo, per così conoscere un pochino il personaggio e per cercare di capire come era strutturata la diocesi, no? Quindi Bolzano non faceva parte della diocesi di Bressanone, faceva parte della diocesi di Trento. All'epoca, tra l'altro, all'epoca di Geisler, il collega trentino è Endrici, Celestino Endrici, originario della Val di Non, che muore nel 40, e poi De Ferrari, adesso mi sfugge il nome, ma insomma era un personaggio, Carlo, grazie, nato in Val Venosta, tra l'altro, però poi era, non so per quale ragione, ma poi dopo, prima di essere nominato vescovo di Trento, è stato vescovo a Modena, in Emilia. Bene, questo invece è, tanto per allargare lo sguardo adesso, da Bressanone, diciamo, alla Chiesa Universale, questo è il Papa Achille Ratti, Pio XI, che sotto il cui pontificato, nel 30, appunto, Geisler viene nominato vescovo di Bressanone. Ecco, lombardo, veniva da Desio, alpinista tra l'altro, anche c'è anche un rifugio, vedo che c'è, no? Signor Stefani, intitolato a Pio XI, e nel 29, sotto il suo pontificato, cito parole di Pio XI del febbraio appunto del 29, si pongono fine, grazie al concordato firmato appunto, no, dal cardinale Gasparri e dal duce del fascismo, si pongono fine, parole sue, ai disordinamenti liberali. Viene ridata l'Italia a Dio e Dio all'Italia, no? Questo è il modo con il quale Pio XI, in un discorso alla Cattolica di Milano, saluta, festeggia i patti lateranensi, il concordato, i patti lateranensi dell'11 febbraio del 29. Tra l'altro il motto del suo episcopato, che era la pace di Cristo e il regno di Cristo, è un motto citatissimo sia in italiano, sia in tedesco, sia in latino dal nostro Kaiser, che in effetti cita quasi più nelle sue omelie, perlomeno, cita quasi di più Pio XI del successore, Pio XII, Papa Pacelli, invece romano, aristocrazia romana. Papa Ratti muore nel febbraio del 39, Pacelli è il suo successore, attraversa tutte le vicende della guerra, della Shoah, è una figura controversa sia in sede storiografica, è in discussione il perché Papa Pacelli scelse di tacere pubblicamente in relazione allo sterminio degli ebrei che si stava verificando appunto dopo la decisione della soluzione finale. È in corso un processo di beatificazione, discusso, controverso anche per questa ragione, e Pacelli anche è un autore, un papa naturalmente a cui fa riferimento Geisler, soprattutto viene citato da parte di Geisler, viene citata la Summi Pontificatus, che è la sua enciclica programmatica, che se abbiamo tempo poi magari possiamo anche poi vedere più da vicino. Ecco, questo allora come prima parte, no? Come introduzione, Bressanone, Geisler, i papi, diciamo, del periodo che stiamo considerando. Pacelli poi muore nel 58, quando poi viene eletto al soglio pontificio Giovanni XXIII, no? Papa Roncalli, di cui poi anche vedremo un'immagine. Bene, adesso direi, fatta questa prima parte, facciamo un po' un salto indietro nel tempo, no? Entriamo qui nella seconda parte, entriamo un po' nella parte più viva, diciamo, dal punto di vista del contenuto, no? della relazione. Siamo tra l'Africa e l'Italia, tra il IV e il V secolo. Questa è un'immagine di Sant'Agostino, no? Del padre della Chiesa, del gigante della filosofia, del pensiero cristiano, della teologia cristiana, Perché fare riferimento a Sant'Agostino in una ricerca che si occupa del vescovo di Bressanone che scrive della pace e della guerra? Ma per una ragione molto semplice, ma secondo me molto importante, perché il pensiero di Sant'Agostino ha, come dire, determinato, condizionato, ha rappresentato proprio il codice culturale, mentale, quasi psicologico forse, attraverso cui le chiese cristiane, non solo quella cattolica, si sono misurate nella visione del mondo, della storia e appunto nello specifico nella visione della pace e della guerra. In altre parole, con Sant'Agostino, è con Sant'Agostino che nasce poi la teologia del peccato originale ed è con Sant'Agostino che nasce la teologia della guerra giusta. Cioè, fino a Sant'Agostino, quindi fino a quando il cristianesimo è ancora perseguitato, fino agli imperatori romani Costantino e Teodosio, i cristiani hanno un atteggiamento o critico o addirittura di rifiuto della violenza, della guerra, dello strumento militare. Con Sant'Agostino e con il vescovo di Milano che lo ha battezzato, Ambrogio, insomma nasce l'idea della guerra giusta, cioè si può, anzi si deve a determinate condizioni fare la guerra, si deve a determinate condizioni, e cioè per legittima difesa, ad vim repellendam, no? E per restaurare un diritto violato è legittimo fare la guerra. Ci sarebbero un po' di passi da leggere, ma insomma li lascerei stare. Questa visione culturale, questa visione filosofico-teologica della storia, del rapporto Chiesa-mondo, attraversa i secoli, ripeto, non solo della Chiesa cattolica. Lutero è un monaco agostiniano che quindi si forma, beve proprio, no? Potremmo dire, il pensiero agostiniano, e arriva quasi fino ai giorni nostri. C'è qualche eccezione, c'è qualcuno che si chiama fuori, naturalmente, mi vengono in mente, non so, nel basso medioevo il francescanesimo, meglio Francesco d'Assisi più che il francescanesimo, oppure la grande figura di pacifista, utopista come Erasmo da Rotterdam, però insomma il pensiero secondo cui a determinate condizioni è possibile, anzi è giusto e doveroso per i cristiani fare la guerra, appunto per difendersi o per restaurare un diritto violato, attraverso i secoli, sostanzialmente nel magistero cattolico, torniamo appunto alla Chiesa cattolica, arriva fino appunto al già citato Papa Roncalli, no? Angelo Roncalli, che diventa Papa appunto nel 58, prendendo il posto di Pio XII. Qui lo vediamo, è una foto simpatica con Ted Kennedy. Papa Roncalli ha un pontificato molto breve, 5 anni, però apre il Concilio Vaticano II, di cui quest'anno appunto ricorre il 50° dell'apertura, 11 ottobre del 62, e nel 63, in aprile, pochi mesi prima di morire, pubblica l'enciclica Pacem in Terris. Tra l'altro è il primo documento del Magistero Pontificio che si apre con la parola pace. È un'enciclica importante per tanti aspetti, su un punto è di rottura netta con il passato. Una frase, solo una frase. Ma la frase dice, questa vale la pena proprio leggerla, la frase dice, nella nostra epoca, quae via atomica gloriatur, che si caratterizza appunto per la forza atomica, bellum, la guerra, alienum est a razione. La guerra è irrazionale, è follia. È follia, almeno è follia ricorrere, lo precisa subito dopo, ricorrere alla guerra per restaurare un diritto violato. Non si può. Qui c'è la rottura con una frase in latino, poi tradotta anche in maniera un po' ammorbidita nella versione italiana, qui c'è la rottura con il passato, con la tradizione. Diciamo, almeno su un punto non è ammessa dal Magistero Pontificio la guerra, non è ammesso il ricorso alla forza per restaurare un diritto violato. Ma qui siamo appunto nel 1963, no? Quindi siamo appunto 49 anni fa, 50 anni fa qua, insomma. Geisinger dove si colloca? Si colloca nella chiesa preconciliare, si è formato appunto sui testi agostiniani, si è formato appunto sulla dottrina della guerra giusta, muore appunto nel 1952, i suoi libri, i suoi studi, la sua formazione sono quelli di Pio XI, sono quelli di Pio XII, sono quelli appunto della, non di tutti, ma insomma della maggioranza, della, perlomeno delle, dei vescovi, delle pie ecclesiastiche dell'epoca, della cultura cattolica dell'epoca, no, degli anni appunto 20, degli anni 10, 20, 30 del Novecento, anni in cui tra l'altro si assiste ad un processo poi che coinvolge poi tutta l'Europa, e quindi anche Bressanone, quindi anche Bolzano, e cioè la sacralizzazione della politica da parte appunto dei totalitarismi. La patria, la nazione sono sacralizzate soprattutto durante la Prima Guerra Mondiale, e gli episcopati cattolici durante la Prima Guerra Mondiale si schierano dalla parte dei propri governi e dicono appunto è giusto e doveroso appunto per restaurare i diritti violati dal nemico entrare in guerra. E questo allora come, così come carrellata allora sul pensiero, brevissima naturalmente, a grandi falcate, insomma, ma il tempo passa, quindi da una parte spero di non correre troppo, dall'altra spero di non affaticare troppo anche. Un altro documento, un altro testo fondamentale di un passato un po' più recente. Qui siamo a Parigi nell'agosto del 1789, siamo nelle prime settimane, primi mesi della rivoluzione francese. L'Assemblea Nazionale Francese ha pubblicato la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e del cittadino, che proclama tra le varie libertà civili considerate naturali, inalienabili, anche la libertà religiosa, la separazione, se volete, no, tra Stato e Chiesa, l'inizio del processo di laicizzazione, no, dello Stato, della società, il processo di secolarizzazione, come alcuni storici, alcuni antropologi dicono, riferendosi a questo evento. Qui sta iniziando un processo che arriva fino ai giorni nostri, cioè un processo storico attraverso il quale le chiese, le religioni tradizionali perdono progressivamente la loro influenza sulla società, sugli stati, sulla politica, sulle leggi. Ecco, insomma, la legge sul divorzio, per esempio, è un tipico esempio appunto di laicizzazione appunto della giurisdizione dello Stato, i cui principi si staccano, no, da quelli della religione cattolica. Il tutto inizia qui, no? Con questi articoli, l'articolo 1, l'articolo 3, l'articolo 6 in particolare. Bene, da questo momento il pensiero cattolico intransigente, francese, tedesco, italiano, spagnolo, e poi il magistero pontificio ottocentesco, penso al sillabo di Pio IX, condannano la rivoluzione, la modernità, l'illuminismo, le costituzioni, perché dicono: questo processo è un processo di inaccettabile apostasia. Il mondo moderno sta mettendo arrogantemente in atto un processo di apostasia, si sta cioè allontanando da Dio, dalla Chiesa che è depositaria della parola di Dio, quindi sta andando verso il male, quindi sta andando verso il caos, verso la barbarie. Non si ammette possibilità di convivenza civile nel pensiero cattolico intransigente che respinge la rivoluzione francese al di fuori delle norme, dei valori, dei principi fissati, no, dal magistero cattolico. Bene, il termine apostasia neopagana, neopaganesimo, eccetera, quindi distacco, rifiuto, no, da parte del mondo moderno, della direzione proprio politica, oltre che culturale, diretta o indiretta della Chiesa sulla società, e attraverso l'Ottocento arriva fino appunto a Geisler. Geisler usa il termine Abfall in tedesco, Abfall von der Kirche, Abfall von Gott, e usa il termine apostasia, appunto nelle omelie in lingua italiana usa il termine apostasia, e usa il termine Abfall, che vuol dire caduta, ma vuol dire anche distacco, allontanamento, nelle omelie in lingua tedesca. E allora, e così arriviamo anche pian pianino alla terza parte, no? Quindi arriviamo a conoscere un po' il più da vicino, diciamo, il pensiero di Geisler, e proprio nelle sue omelie c'è appunto la presenza, ho trovato, insomma, mi sembra di aver trovato in maniera abbastanza cospicua, abbastanza pressante proprio sia la tradizione agostiniana, che legittima appunto la guerra a determinate condizioni e che ha una visione pessimista appunto della storia macchiata dal peccato originale, sia appunto il concetto della apostasia, no? Da parte del mondo moderno, della modernità nel suo insieme, dalla Chiesa, dal Papa e in ultima istanza da Dio, ma direi soprattutto dalla Chiesa e dal Papa, perché il magistero della Chiesa è considerato il depositario dei quelli che oggi vengono chiamati, che Ruini ha chiamato recentemente, valori non negoziabili, no? I valori naturali sono conservati dal magistero pontificio, quindi staccandosi da essi ci si stacca dai principi della retta convivenza, della retta ragione, per usare i termini che ricorrono sui testi. Cosa fa Geisler quando la guerra è già iniziata? Cioè, la guerra mondiale inizia il 1 settembre del 39 con l'invasione da parte della Germania nazista della Polonia. L'Italia non entra subito nel conflitto, entrerà appunto il 10 giugno del 40. Geisler però si occupa già di pace, con una articolata e anche sofferta, devo dire, perché è piena di correzioni, di integrazioni, quindi non è di lettura semplicissima, omelia che si intitola in tedesco, ha un titolo tedesco, si chiama Friede Christi, però ha un testo in italiano. Siamo nel marzo del 40, quindi con gli optanti sudtirolesi che sono già appunto in guerra con la Wehrmacht, con l'Italia che insomma si sta preparando al conflitto, anche se poi è totalmente impreparata sul piano militare, come si può vedere anche in quella mostra molto bella che vi segnalo, che c'è a Trento, alle Gallerie di Piedicastello, sulla invasione nazifascista dell'Unione Sovietica nel 42. Bene, Geisler scrive appunto una omelia nel marzo del 40, e questa a me sembra fosse proprio, non è la prima in cui Geisler parla di pace e di guerra. Se ne era già occupato anche negli anni 30 a proposito della guerra di Spagna e commentando anche gli esiti della prima guerra mondiale, però questa nel 40 è durante gli anni della seconda guerra mondiale, è l'omelia quella, come dire, più dottrinale, no? di Geisler. Qui magari possiamo intanto andare avanti, ecco, visto che siamo nel 40, questa è un'immagine presa dal libro di Carlo Romeo, ed è qui a Bolzano, qui è proprio la 10 giugno, la folla in Piazza Walter che ascoltano via radio l'annuncio, la dichiarazione di guerra di Mussolini, no? La sera del 10 giugno del 40. E, bene, nel marzo del 40 Geisler scrive così, in italiano. Scrive: la guerra è una delle conseguenze più disastrose del peccato originale. La terra fino ad allora, cioè fino al peccato originale, paradiso, è divenuta campo di battaglia. L'uomo si è ribellato contro Dio e nello stesso tempo la natura si è ribellata contro l'uomo. E, analisi teorica, no? Teologia della storia. Bene, qui Geisler sta traducendo dal francese. La cosa interessante è che Geisler conosce molto bene il Dizionario di Teologia Cattolica, pubblicato nel 14, proprio alla vigilia della prima guerra mondiale, e poi più volte ristampato, senza modifiche. Geisler conosce una versione, un'edizione del 25, conosce perché è un dizionario, è conservato, tuttora è consultabile, nella biblioteca del Seminario Maggiore, nella quale Geisler appunto ha insegnato la storia della Chiesa, no, dal 22 al 30. Nel 40 lui ha scritto così: la guerra è una delle conseguenze più disastrose del peccato originale, la terra fino ad allora paradiso è divenuta campo di battaglia. In questo dizionario, in francese, si dice appunto: la guerra è inevitabile, è senza dubbio una delle conseguenze del peccato originale, la terra che prima del peccato di Adamo era un paradiso terrestre è diventata un campo di battaglia. La versione di Geisel era un po' più breve, è un po' più, come dire, un po' più sintetica, la definizione del dizionario di teologia cattolica è più ampia, però mi sembra che questa sia una delle fonti proprio a cui Geisler si sia ispirato proprio nella stesura di questa omelia. E quindi qui c'è l'idea che il peccato originale, teologia della storia agostiniana, abbia creato appunto le rovine. Tra queste rovine c'è anche la guerra. La guerra è appunto un male, una conseguenza della ribellione di Adamo e di Eva appunto a Dio. Questa è teologia, però poi c'è sempre nello stesso testo qualcosa di più concreto, di più legato alla, se non alla politica del tempo, alla storia contemporanea, appunto alla storia successiva alla rivoluzione francese, perché in questa stessa omelia del 40 Fide Christi ad un certo punto, proprio nel centro, nella parte centrale di questa omelia, dice così, sempre in italiano: l'egoismo prevale perché non è frenato da una autorità che sia capace di frenarlo. I fatti stanno a provarlo. Quanto si è fatto dopo l'ultima guerra mondiale, cioè dopo la guerra del 14-18, dopo la prima guerra mondiale, per assicurare la pace e per impedire le guerre future, hanno creato una Lega delle Nazioni. Era sorta appunto, soprattutto per iniziativa del presidente americano Wilson, a Ginevra, la Società delle Nazioni, che nelle intenzioni aveva il compito di, per la prima volta nella storia dell'umanità, prevenire per via diplomatica i conflitti. Non ci riesce, fallisce, è una specie di ONU ante litteram, ma con ancora meno poteri dell'ONU, no? In ambito cattolico europeo si era aperto un dibattito su iniziativa di alcuni gesuiti tedeschi e francesi affinché la Chiesa incoraggiasse questa Società delle Nazioni di Ginevra. Pio XI è molto freddo, è molto scettico, ritiene che solo l'arbitrato dei papi possano riportare l'Europa e il mondo ad una pace stabile, solida. Bene, Pio XI è scettico anche Geisler, e dice: hanno creato appunto una Lega delle Nazioni, la chiama così, a questo scopo, cioè appunto per conservare la pace, ma questa Lega non era capace di conservare la pace, perché non ha fatto giustizia e non ha riconosciuta l'autorità di Dio e la legge cristiana della giustizia e della carità. Allora, a Ginevra hanno fallito perché questa Lega delle Nazioni, come la chiama Geisler, non ha voluto riconoscere l'autorità di Dio e la legge cristiana. L'apostasia da Dio e dal cristianesimo è la radice più profonda di tutte le guerre e di tutte le lotte. L'apostasia da Dio e dal cristianesimo, ecco il termine apostasia, abfall, no? Che torna fuori nel pensiero di Geisler, è la causa vera delle guerre. O si torna sostanzialmente a accettare la direzione, perlomeno culturale, morale, ma poi anche politica, della Chiesa sulla società, o si torna cioè a restaurare la legalità di Cristo Re, e qui i riferimenti di Geisler sono all'enciclica di Pio XI che nel 25 introdusse la festa appunto di Cristo Re, con valenze politiche, politico-sociali, non solo spirituali, non solo inerente alla salvezza individuale. Quindi o si torna in quella direzione, oppure il mondo moderno è destinato a nuove guerre, è destinato appunto a nuove barbarie. Allora qui mi sembra che in questo testo appunto di Geisler del marzo del 40 ci siano sia dipendenze, diciamo, da una visione della storia di matrice appunto agostiniana pessimista, no? Il peccato originale, la guerra come sciagura legata appunto al male presente indelebilmente nella storia, sia d'altra parte il richiamo all'apostasia, al male di cui soffre l'umanità dai tempi della Rivoluzione francese, cioè dai tempi nei quali l'umanità, perlomeno in Europa, ha cercato di organizzare autonomamente dalla Chiesa e dalla religione la cattolica, la convivenza civile. E nel 42, vado avanti, c'è una lettera pastorale per la Quaresima del gennaio del 42, e qui anche c'è un aspetto importante, ce la fate ancora 5-10 minuti così? Ci siete? Si può fare? Allora vado avanti ancora un pochino. Allora, in questa lettera quaresimale del 42, le lettere quaresimali sono pubblicate sul bollettino della diocesi, vi dicevo, che è un mensile, oggi si chiama Folium Diocesanum Bautzanense Brixinense, all'epoca si chiamava Brixener Diocesanblatt, poi il fascismo cambia nome e gli mette il nome Folium Diocesanum Brixinense. Vengono pubblicate durante fino al 43, quindi fino all'8 settembre, vengono pubblicate prima in italiano e poi in tedesco. Dopo l'8 settembre, esattamente al contrario. E in questa lettera del 42, che spero di recuperare presto, sì, eccola qua, c'è una, come dire, un ulteriore approfondimento della visione, appunto, della storia e del rapporto Chiesa-mondo di due anni prima. Che cosa si dice qui per la Quaresima del 42, quindi con la guerra che ormai è in corso e ormai da parecchio e sta facendo, appunto, sta lasciando i segni, appunto, anche sulla popolazione locale, nel senso che, appunto, sono tutti a fronte, i giovani e le famiglie, appunto, sono nelle ristrettezze e nelle sofferenze legate alla guerra. Bene, dice ad un certo punto: le guerre sono un castigo per l'abbandono di Dio e dei suoi comandamenti. Quindi la guerra è un castigo inviato da Dio sull'umanità. Geisler, anche qui, non inventa nulla, traduce in italiano e in tedesco per il clero e per i fedeli della diocesi di Bressanone la linea del magistero pontificio. Pio XII, nella Summi Pontificatus, la sua enciclica, appunto, inaugurale del 39, aveva scritto, proprio presentandosi quindi al mondo cattolico, aveva scritto in questa enciclica il riconoscimento dei diritti regali di Cristo e il ritorno dei singoli e della società alla legge della sua verità e del suo amore sono la sola via di salvezza. E poi dice Pio XII, sempre nello stesso testo, vediamo un po' se lo trovo il passaggio che mi sembrava significativo, vediamo un po', sì, dice poi sotto che bisogna sostanzialmente, proprio davanti a queste apocalittiche previsioni di sventure imminenti e future, consideriamo nostro dovere elevare con crescente insistenza gli occhi e i cuori di coloro in cui resta ancora un sentimento di buona volontà verso l'unico maiuscolo da cui deriva la salvezza del mondo, eccetera. No? Allora, o ci si riconverte, diciamo, al cristianesimo inteso proprio come cemento della coesione sociale, oppure siamo destinati a soffrire, a ricevere i flagelli come la guerra che Dio invia sulla terra. Perché? Perché è stato l'abbandono di Dio e dei suoi comandamenti. E le guerre in generale, qui parla Geisler nel 42, non dice questa guerra, ma siamo in guerra, dice le guerre in generale, quindi anche questa, anche la guerra voluta dal nazifascismo, anche la guerra d'aggressione, appunto, della Germania nazista e dell'Italia fascista, sono un mezzo di punizione e di educazione nella mano di Dio. Il Dio non vuole la morte del peccatore né l'annichilimento dei popoli, ma vuole che essi si convertano e si correggano. Quindi la guerra strumento, diciamo, di riconciliazione, la guerra come riparazione delle colpe, la guerra, appunto, come castigo. Queste cose le aveva scritte anche Benedetto XV negli anni della prima guerra mondiale. Queste cose le dice Pio XI in alcuni documenti che, appunto, non leggiamo. Queste cose le dice lo stesso Pio XII, a cui questa volta fa riferimento nel 42 fa riferimento Geisler. mi avvio a chiudere, nel senso che ci sarebbero tante cose da dire. Questa è un'immagine di Bolzano sotto i bombardamenti, siamo appunto nella fase poi più critica della guerra, la fase appunto in cui le città e le località poste lungo la linea del Brennero sono bombardate, la guerra coinvolge i civili in casa, diventa poi guerra di liberazione dal settembre del 43 fino al settembre del 45, il coinvolgimento è totale. Qui da noi appunto c'è l'occupante nazista, il Gauleiterhofer, le tre province annesse al Terzo Reich. Che cosa fa Geisler appunto nel 42, nel 43 e nel 44? Pubblica omelie, prevalentemente omelie, per esortare i fedeli alla preghiera. E per cosa si prega? Si prega per salvarsi, si chiede a Dio la salvezza, la si chiede per sé e soprattutto per i propri cari impegnati nelle tragedie del fronte. Ma si prega anche, dice Geisler, che non nomina mai né Hitler, né Mussolini, né il fascismo, né il nazismo, si prega anche per una pace giusta. E si prega anche, questo Geisler lo fa sempre nella quaresimale del 42 e poi il 31 gennaio del 43, con una omelia tenuta nel Duomo di Bressanone, si prega perché ci sia un esito, affinché il Signore dia un esito felice alla guerra e dia quindi una pace giusta e duratura, che conceda protezione e benedizione ai nostri soldati. Quindi si prega per un esito felice della guerra. Esito felice vuol dire poi vittoria, no? Si dice appunto: direttissimi diocesani, 31 gennaio del 43, siamo dunque assidui nella preghiera, non possiamo aspettarci da Dio che la vittoria prima e la pace poi vengano presto se noi non gliene chiediamo nella preghiera. I passi sono forti, nel senso appunto che non si dice mai, come dicono altri vescovi, come dice Civita Cattolica negli stessi anni, che la guerra di Hitler e di Mussolini è una guerra contro il senza Dio, è una crociata appunto contro il comunismo, eccetera. Questo non si dice, Geisler non lo dice, è molto più sfumato, più moderato se vogliamo, però indubbiamente ancora nel generale 43 si dice che bisogna pregare non solo perché Dio protegga i soldati e li benedica, ma anche perché alla fine ci sia una pace giusta, duratura e ci sia una vittoria, un esito felice della guerra. Quindi comunque c'è una identificazione di Geisler nelle ragioni della guerra nazifascista, c'è comunque l'idea che bisogna farla questa guerra e bisogna obbedire. Il soldato e il cristiano sono milites entrambi non possono disertare. Questo lo dice sempre in queste omelie, lo dice appunto tra il 42 e il 43, lo dice anche nel 44, lo dice nel 44 in una lettera quaresimale per la quaresima del 44, e lo dice tra l'altro richiamando un passo di una lettera pastorale dei vescovi tedeschi del 41, i quali dicevano che è dovere per il soldato, per il cristiano e per il cattolico in particolare, è dovere obbedire alle autorità dello Stato, qualunque esse siano, perché si tratta appunto di rispettare, anzi applicare, mettere in pratica, realizzare concretamente nella storia la volontà di Dio, no? In sostanza questo è il principio. Eccolo qua, i vescovi tedeschi parlavano di sacro volere di Dio, Heiligen Willen Gottes, no? Nella quaresimale collettiva, una delle ultime del 41. Geisler anche qui non si spinge fino a questo, non parla di sacro volere di Dio, però sottolinea nel 42, nel 43, nel 44 che comunque tra i doveri appunto del fedele cattolico, anche quando è soldato, c'è appunto l'obbedienza alle autorità politiche, qualunque sia il loro colore, potremmo dire, no? Qualunque sia la loro ideologia, il loro programma. Ecco, cito velocissimamente un passo, dice: i sacrifici che lo Stato ed il governo richiedono dai singoli nell'interesse del bene comune dobbiamo accettarli volonterosamente. Questi sacrifici saranno necessariamente assai maggiori in tempo di guerra, dove è in gioco il destino dell'intero popolo. Anche in tale contingenza vogliamo sopportare coraggiosamente i sacrifici congiunti nella consapevolezza di compiere la volontà di Dio. Ecco, non dice sacra, però, no, questo non lo dice, questo lo dicono i vescovi tedeschi nel 41, lui dice però dobbiamo essere consapevoli che è fondamentale l'obbedienza, perché si tratta appunto di compiere consapevolmente la volontà di Dio. L'ultima immagine, il Sacro Cuore, questo è il dipinto famoso di Carl Henrici che troviamo qui a Bolzano nel nostro Duomo, dipinto settecentesco. Il Tirolo si consacrò al Sacro Cuore di Gesù nel 1796, quindi negli anni della rivoluzione francese, dell'età napoleonica. Il Sacro Cuore è un simbolo utilizzato poi anche in altre parti d'Europa in senso antirivoluzionario, ha una valenza qui inutile tornarci sopra, per l'attuale del Tirolo, no, importante, fa parte dell'identità appunto, così anche controversa, no, religiosa e politica del Tirolo storico e della situazione dell'attuale del Tirolo di oggi. Cosa fa Geisinger nel 45, quando la guerra è da pochissimo finita? Emana appunto una lettera pastorale in cui si dice in sostanza che bisogna, per finalmente avere, dopo carneficine, devastazioni legate e connesse appunto con una guerra che sembrava interminabile, per salvarsi bisogna sostanzialmente fare Zurück zu Christus und zu seiner Kirche, fare ritorno quindi a Cristo e alla sua Chiesa. In che modo? Consacrandosi di nuovo, sia come singoli fedeli sia come società locale e come chiesa, al Sacro Cuore di Gesù. La medicina, proprio, dice, il sanatorio, dice in questa lettera pastorale del 45, è appunto Cristo, il Sacro Cuore di Gesù. Dice in sostanza, se vogliamo poi evitare che l'Europa che sta nascendo sia un'Europa comunista, bolscevica, dobbiamo appunto, questa è l'unica ideologia totalitaria a cui Geisel fa riferimento esplicito in senso critico, dobbiamo appunto fare ritorno alla Chiesa e riprendere la devozione del Sacro Cuore, quindi Zurück zu Christus und zu seiner Kirche, no? Questa è un po' la conclusione, proprio, siamo proprio nel 45, quindi i primi mesi di pace in sostanza. Allora, apostasia, peccato originale, o si torna a Cristo, alle medicine, diciamo, offerte dal cristianesimo e dai suoi ministri, oppure si è destinati a incorrere ancora, no, a impattare ancora contro il male del mondo moderno, che è quello di, agli occhi di Geisinger e del magistero pontificio dell'epoca, che è quello appunto di volere una convivenza autonoma, laica, secolarizzata. Basta, mi fermerei qui, vi ringrazio molto dell'attenzione, vi scuso se magari ho appesantito a volte la relazione con qualche citazione in più. Vi ringrazio comunque. Allora, grazie ad Andrea Sari per la sua relazione. Io, visto il tema della serata, ho commesso un grave peccato, è stato quello di non presentare l'identità del nostro relatore, che però è emersa chiaramente dalla sua relazione. Insomma, Andrea Sari è in ordine di importanza socio di storia e regione Geschichte und Religion, è docente presso il liceo Carducci ed è naturalmente storico della religione, ha già pubblicato diversi saggi in cui ha affrontato temi tra i quali anche quello del Sacro Cuore, proprio qui qualche anno fa, che è stato presentato, insomma, no? Ecco. Il tema, il modo con cui Andrea ci ha presentato la figura di Geisler rientra molto bene nel tema generale che vi ho presentato precedentemente. Il tentativo è quello proprio di andare a cercare di capire quali sono le fonti da cui scaturisce il pensiero di Geisler, e Andrea l'ha fatto con piglio filologico, andando a ricercare anche qual è il materiale su cui Geisler può aver studiato, qual è l'ambiente culturale all'interno del quale è cresciuto, e che naturalmente ha condizionato il suo modo di di svolgere la sua missione pastorale. Ecco, penso che potremmo approfittare della presenza di Andrea qui per porgli delle domande, perché immagino che ci siano delle curiosità, insomma, che la sua relazione ha suscitato. E potrei permetti di cominciare io, forse, per chiederti una cosa. Allora, quanto effettivamente la posizione di Geisler, che emerge, tu dici in maniera moderata, però in alcuni passaggi in modo molto chiaro, è necessaria, nel senso che esisteva all'interno del mondo cattolico e delle istituzioni ecclesiastiche dell'epoca anche una corrente che permetteva in qualche modo forse una visione diversa, più critica nei confronti della guerra? Ci sono degli episodi, insomma, che ci consentono di vedere una possibile contrapposizione dialettica rispetto a questa posizione maggioritaria che c'è all'interno delle gerarchie cattoliche. La domanda è bella grossa, sì. Okay. Te ne faccio un'altra. È molto bella, no? Sì, è molto stimolante, nel senso che leggendo le lettere pastorali dei vescovi di Bressanone, di Trento, oppure anche di altre realtà diocesane, oppure quelle collettive, Geisler tra l'altro appunto sottoscrive, perlomeno firma, le lettere collettive dei vescovi del Triveneto negli anni 30, ne scrive una sulla pubblica moralità nel 34, se non sbaglio, una nel 37 sul pericolo del comunismo. Lì potremmo dire che Geisler da questo punto di vista non è isolato, appunto è in linea, in sintonia con gli orientamenti delle gerarchie ecclesiastiche cattoliche italiane sicuramente, ma non solo. Ci sono comunque fermenti negli anni 20 e 30 all'interno del mondo cattolico europeo. Prima ho fatto un forse troppo veloce riferimento all'azione di alcuni gesuiti tedeschi e francesi che si trovano a Friburgo durante le vacanze estive, anzi durante le vacanze di pasquali, e si trovano diverse volte per alcuni anni tra gli anni 20 e gli anni 30 e si chiedono: è legittimo fare oggi, dopo le devozioni della prima guerra mondiale, il servizio militare in quanto cristiani? Sturzo in Italia è l'unico forse a porsi queste domande negli anni 20 e poi anche e soprattutto quando poi è in esilio, no, a Londra durante gli anni della dittatura fascista. Si pongono poi altre domande. Allora, c'è una novità grossa che è appunto la Società delle Nazioni di Ginevra. Che fare come Chiesa, come cristiani? Riconoscersi in essa, appoggiarla, darle credito, oppure no, oppure solo il Papa, solo il Magistero Pontificio è garanzia di pace, convivenza, eccetera. Queste domande ci sono, il dibattito è aperto, però rimane, diciamo, negli anni 20 e 30 e 40 rimane, come dire, molto d'élite, molto isolato ad alcune riviste, alcuni gruppi o alcune singole figure. Ecco, mi viene in mente il Mazzolari in Italia, Don Primo Mazzolari, non il primo Mazzolari che è interventista durante la prima guerra mondiale e è convinto appunto della missione cattolica a sostegno appunto dell'Italia in guerra, ma diciamo il Mazzolari degli anni 30, ecco, figura isolatissima all'interno del panorama cattolico italiano e non solo. Fermenti ci sono molto sotterranei, sono quasi invisibili, sono appunto queste figure, queste riviste. Forse la novità dirompente della Pace Militaris di Papa Roncalli è stata quella proprio di, come dire, portare a galla e incoraggiare all'interno del mondo cattolico, insomma, Padre Balducci, Lorenzo Milani in Italia, linee di pensiero, di cultura, di orientamento che accogliendo i segni dei tempi di cui parlava Roncalli si mettono in posizioni nuove, diciamo, rompono o iniziano a rompere con la tradizione della guerra giusta. Qui a Bressanone, a Trento, queste idee fanno fatica a circolare, forse ci sono, ma bisognerebbe studiarle a fondo, i negli scritti di Josef Mayr-Nusser, che fa comunque riferimento alla regalità sociale di Cristo, intesa come alternativa e alla guerra e soprattutto all'ideologia, diciamo, bellicista e razziale del nazismo e del fascismo. Tutto un campo da approfondire. C'è il volume curato da Immerhofer, che ha pubblicato da poco, che contiene appunto gli scritti di questo gruppo. Ecco, lì sarebbe un po' da approfondire in questa direzione, secondo me. Sono domande da parte. Io parlo per ricordo riflesso, no? Mio papà di Geisler non ricordava assolutamente la sua avversione alla guerra, ma ricordava la sua essere stato a favore delle opzioni. Probabilmente la popolazione, sì, di lingua italiana era rimasta colpita da questo fatto, che il vescovo si era presentato a optare per l'Austria, per la Germania. Per il Reich, sì. Io ho avuto occasione di parlare con Gemmi un giorno. Gemmi, voi sapete chi è, no? E gli ho chiesto perché Geisler aveva questa posizione di ottanti, e mi diceva non è stata la sua posizione, ma la posizione era di Papalino. Ora io mi dicevo, Geisler, un austriaco, era tiepido allora verso le opzioni, e ci voleva un Fodom per sollecitarlo a essere favorevole alle opzioni. Perché mi sembra che Pompanin fosse o di Cortina o di Livinallonga. Sì, sì, è Ampezzano, sì, esatto, di Cortina proprio, sì, se non ricordo male, sì. Ma sì. Questa domanda ha una risposta? Temo di deludere, nel senso che il tipo di fonte che ho considerato e il tipo di approccio che ho cercato di dare è volto un po' a cercare, insomma, nei limiti di quello che mi è stato possibile fare, capire gli orientamenti culturali, religiosi di Geisler, e utilizzare quindi questo tipo di fonte per studiare il rapporto, diciamo, di una porzione della Chiesa cattolica, come quella di Bressanone, e il mondo moderno, sia pure nel travaglio delle vicende storiche qui nostre particolari. Da questo punto di vista gli studi migliori sono quelli appunto di Josef Gelmin, no, che sicuramente utilizza come fonte proprio anche le corrispondenze d'archivio, in parte, tra l'altro in parte aperte al pubblico, in parte no, tra Geisler, Pompanin, le autorità della curia e le autorità prefettizie, poniamo, no? Ecco, io ho avuto l'occasione di consultare un po' di documenti di carte di polizia, di carabinieri soprattutto, che sono conservate qui all'archivio del commissariato del governo, relazionano su Geisler e sono sostanzialmente unicamente o quasi prevalentemente interessate a evidenziare l'atteggiamento di Geisler e del clero diocesano in merito alle politiche di italianizzazione forzata della provincia, e dicono sono sempre i soliti, su di loro non si può contare, sono dei testoni, proprio dicono così più o meno, sono rigidi, sono nulla di nuovo. Nel 35-36, durante le vicende della guerra d'Etiopia, delle sanzioni eccetera, oppure nel 37-38, quindi durante comunque della guerra civile spagnola, si dice sono più vicini a noi perché stanno predicando contro il comunismo che sta combattendo in Spagna, appunto, no? Che nella guerra civile franchista, quindi c'è una possibilità di trovare un'intesa, perlomeno una vicinanza, ecco. Però l'aspetto, diciamo, etnico-nazionale nelle carte di polizia è quindi prefettizie è prevalente, da quello che ho potuto vedere fino adesso. Poi bisogna andare avanti, insomma, ecco, è tutto da bisogna andare avanti, insomma, siamo proprio così, frammenti, no, lame di luce su questi documenti che aspettano di essere letti e commentati, insomma. Volevo chiedere il vescovo nella sua scelta di optare, mi pare che lei aveva detto che optava come tedesco, sì, non sì, come vescovo. Sì, quindi toglie l'anello nel momento in cui firma, compie proprio questo gesto e fa questa dichiarazione. Quindi non seguiva il suo gregge, come magari qualcuno ogni tanto dice, che si sentiva diciamo obbligato a seguire la popolazione che in massa aveva optato. in pratica questo non questo avviene. Questo non avviene, poi lui di fatto rimane qui, no? Rimane qui perché appunto come rimangono qui. E un'altra domanda, questo suo atteggiamento può aver condizionato o nel suo diciamo predicare può aver favorito l'adesione così massiccia alle opzioni al spazio? Sì, appunto, ecco. Qui le confesso, sì, proprio è un campo da esplorare. Ora mi sto terminata questa per ora almeno questo esame della predicazione pubblica durante la guerra, sto incominciando a tenere in considerazione le omelie e le pastorali negli anni del fascismo, però mi sono proprio fermato al 37-38, quindi agli anni in cui il Papa Pio XI pubblica le encicliche sul comunismo e sul nazismo, sia perché sono temi corposi, presenti proprio nella predicazione di Geisinger, sia perché poi quello che succede nel 39, qui appunto dal giugno del 39 fino al giugno del 40, quando poi appunto Geisinger e Pomparin optano, beh, secondo me richiede proprio uno scavo in materiale archivistico che dovrebbe andare anche al di là, diciamo, della predicazione pubblica. Nella predicazione pubblica non si trovano, se non velatamente, se non con qualche riga in cui si dice dobbiamo riconciliarci, abbiamo avuto tante fratture, insomma, ecco, non si trovano riferimenti diretti, espliciti, chiari sul tema opzioni. Bisognerebbe utilizzare altre carte d'archivio, corrispondenze, lettere private, atti di curia, corrispondenze tra la curia diocesana e la Santa Sede, relazione Santa Limina. Ecco, un documento molto importante, una fonte molto importante è la. Si chiamano Relaciones ad Limina, sì, mi scuso di aver mangiato le parole, sono delle relazioni che i vescovi erano e sono tenuti ad inviare periodicamente a Roma, alla congregazione del clero, nella quale appunto in latino normalmente si occupano dello stato materiale e morale della diocesi. Però noi possiamo consultare queste relazioni, che sono un documento corposo e molto interessante, fino ad un certo anno, non mi ricordo più quale, ma di fatto quelle di Geisinger non possiamo consultare. Sarebbe interessante cominciare a poterlo fare, insomma, perché insomma, oppure altro dato molto importante potrebbero essere le visite pastorali, gli atti delle visite pastorali. Anche questi sono documenti preziosi, un po' sono conservati a Bressanone, un po' in Vaticano, nell'archivio segreto Vaticano. Insomma, bisogna sperare credere che gli archivi vengano finalmente aperti, perché è un materiale, è una fonte sterminata, insomma, ma piena di dati, secondo me, estremamente utili e preziosi. E proprio per cercare anche di entrare fuori dalla logica un po', diciamo, un po' così controversistica, no? Andare proprio a vedere che cosa hanno scritto il vescovo e i suoi segretari ufficialmente nelle relazioni con la Santa Sede sulla diocesi negli anni, nei mesi delle opzioni e dintorni, diciamo. Che descriverebbe la loro visione delle cose e la percezione che trasmettono a Roma, ma forse non tanto ciò che loro hanno fatto, ovvero l'impatto che la propria figura, la propria visione delle necessità o delle azioni da intraprendere può aver avuto sulla popolazione. Penso di sì. È un altro canale. Sì. Esatto, è un altro canale, sì. Sì, anche perché forse poi c'è la questione della propaganda, nel senso che il clima dell'opzione è un clima che era segnato da fortissima azione di propaganda da parte dei gruppi che sostenevano l'opzione a favore della Germania, per cui chiaramente un gesto come quello di Geisinger è stato sicuramente sfruttato in termini propagandistici in modo molto forte. Per cui non è stato lui l'artefice di fatto, ma ha dato adito ad altri. Sì, questo. E penso che comunque Geist in qualche modo dovesse essere consapevole del rischio che correva da questo punto di vista. Credo proprio di sì, sì. Non erano sprovveduto. Non erano sprovveduto, sicuramente sì. Ci sono altre domande, signora? Volevo dire, a quei tempi si diceva sempre che Geisler sosteneva che lui ha optato per la Germania, insomma, perché il pastore deve seguire il suo regge, ma l'ha detto o non l'ha detto? Sì, risulta come sui giornali, sì, risulta questa frase, sì, risulta, quanto ne so io, sì, sicuramente sì, questa si può dire di sì, insomma, sì. Sì. Leggendo Gelmi, leggendo Romeo, sì, ecco, sicuramente, sì, è proprio la dichiarazione pubblica, no? Spaccando o comunque ponendosi appunto contrasto con invece il clero parrocchiale, no? Il clero, sì. Cioè, sì, da questo punto di vista la corrispondenza con Roma sarebbe interessante, perché sì. Senz'altro la scelta di Geisler non è stata fatta senza chiedere preventivamente autorizzazione, infatti, no? E quindi l'argomentazione che potrebbe emergere dalla corrispondenza potrebbe essere. Sarebbe interessante, sì, estremamente interessante, ricca di informazioni. Altre domande? Io vorrei chiedere una cosa, cioè non entro nel merito delle scelte che ha fatto Geisler, di qua o di là, sono problemi suoi, ma mi sento di dover contestare qualche lettera pastorale che lei ha letto prima, no? In merito alla che lui diceva dell'apostasia, cioè che questa è una punizione, diciamo, sì, di Dio della guerra mondiale che c'è stata, sì, sì. No, perché si è staccato un po' da Dio, diciamo, sì, come religione. Diceva anche che è una giusta pace è una vittoria, prima una vittoria, sì, poi una giusta pace, no? Sì. Ecco, nelle preghiere, sì. Questo mi sembra di doverlo un po' contestare, perché che io sappia, leggendo anche la Bibbia, il Vangelo, queste cose qua, è vero che Dio ha autorizzato una guerra per portare il suo popolo nella terra promessa dall'Egitto, con quello che sappiamo, battaglie, morti, una cosa del genere. Però non mi risulta che Dio abbia autorizzato altre guerre, specialmente in questa ultima guerra mondiale, dove il nazifascismo, che ha scatenato la guerra, non ha fatto altro che una guerra di aggressione contro altri popoli. Cioè, è vero che poi, se andiamo indietro, sono stati gli spagnoli che con Colombo sono andati in America e hanno fatto quello che hanno fatto, l'inglese idem e così via. Gli italiani in Libia, in Etiopia hanno fatto quello che hanno fatto, è vero. Ma non mi risulta che ci siano, che Dio abbia autorizzato, cioè che ci vuole una, che è la giusta punizione che Dio ha dato per questa guerra, perché c'è l'apostasia, cioè ci stiamo staccando dalla verità, diciamo, no? Mm-hmm. Questo non mi risulta, non credo. Cioè non le risulta nel senso, non crede come sua condizione personale, non le risulta. Io non credo, Dio è una persona, è un essere, un Dio, un qualcosa di buono, di amorevole. Non credo che, a parte, come ho detto, il suo popolo dall'Egitto, la terra di Abramo, la terra promessa, non mi risulta che abbia deciso di fare altri stermini, mm-hmm, delle persone umane. Ma guardi, sì, chiamare le questioni bibliche, così, esigenze dei Vangeli della Bibbia, tra l'altro è un campo che non è proprio il mio. Ci potrebbe fuori strada, anche se sarebbe molto interessante, no? Qualcosina poi si potrebbe anche dire, ma quello che mi viene in mente è questo, che si potrebbe dirle, che si può dire, secondo me, come così chiave di lettura storica. diciamo come chiave di lettura, diciamo considerando la storia sul medio e lungo periodo. Ecco, la storia della Chiesa e del cristianesimo è necessariamente una storia di medio e lungo periodo, no? Per cui noi possiamo trovare schemi mentali, culturali e elementi di giudizio sulla storia che attraversano i secoli. Prima dicevo la teologia agostiniana, il pessimismo agostiniano, no? Il pessimismo agostiniano, la teologia del peccato originale, la guerra giusta, legittimata per legittima difesa, per risarcire, no, i diritti violati, arriva in effetti indubbiamente fino al Novecento. I papi che si chiamano Pio, mi scusi, dico solo questo per essere chiaro, per cercare di essere chiaro, i papi che si chiamano Pio, che scelgono di chiamarsi Pio, da Pio VI durante la rivoluzione francese fino a Pio VII, lo fanno perché intendono richiamarsi all'unico papa santo dell'età moderna, cioè Pio V, che promosse appunto la Lega di Lepanto contro i musulmani. Quindi c'è, se vuole, allora una sacralizzazione della guerra, della religione intesa in senso di identità che si forma, si afferma contrapponendosi all'infedele. C'è questo macigno, se vuole, dentro la storia del cristianesimo con cui Roncalli ha iniziato a fare i conti. 50 anni fa, no? Non prima, ecco. Sì. Questo sì, direi. Sì, ecco, io contestavo solo quella lettera. Sì, sì, certo, certo. Cioè, che non le è piaciuta, insomma. Veramente, questa è stata una guerra di aggressione. Ah, sì. È chiaro che se io devo difendermi, se uno entra in casa mia e vuole possessarsi il mio appartamento, mi devo difendere. E su questo infatti Roncalli non è chiarissimo, cioè lui dice la guerra è follia per restaurare i diritti violati. Sulla guerra come legittima difesa la stessa pacem interris non arriva a dire no anche alla guerra per legittima difesa, no? Cioè, io voglio dire che se vengo aggredito mi devo difendere in qualche maniera, chiaramente, ma come fa a dire come ho detto prima, cioè questa guerra di aggressione, certo, che hanno fatto i nazi, sono stati loro ad aggredire gli altri popoli. Se lei va a Trento alle gallerie di Piedicastello, questa mostra sul ritorno sul Don, c'è una bellissima seconda sezione di propaganda proprio religiosa in funzione della guerra aggressiva contro i senza Dio. No? E le fonti che hanno messo sono molto significative, c'è Famiglia Cristiana, c'è Civiltà Cattolica, c'è il settimanale il Vittorioso per i bambini, per i ragazzi dell'Azione Cattolica, poi c'è la propaganda fascista e poi c'è quella comunista. Può mettere a confronto le propagande del totalitarismo e la cultura cattolica che si riconosce in quella guerra di aggressione, perché si dice, se noi le aggrediamo noi, arrivano loro con la faccia e martello, no? E quindi dobbiamo fermarli noi. Qui, scusa, c'è una certa discrepanza, voglio dire, sono quasi in contraddizione poi però queste omelie, perché da una parte dice preghiamo per una soluzione felice e quindi la vittoria, dall'altra dice la guerra è il castigo che ci è dato, certo, dobbiamo pregare perché vinca, non lo so, mi sembra che si sono barcamenati, e anche, poverino, dopo Giovanni XXIII, anche i preti croati, anche la Chiesa, voglio dire, predicavano dal pulpito la guerra giusta anche loro, no? Quindi non è cambiato niente da allora. La sfida è, diciamo che dopo secoli, siamo 50 anni, sono un balbettio, no? Però insomma ci siamo, insomma, ecco, adesso sì. Io prima la rottura c'è stata. Io prima ho fatto il paragone della guerra voluta da Dio per il popolo nella terra, lì ci sono stati morti, lo sappiamo, insomma. Certamente altro non ne so, voluta. Certamente si spera che questi rotoli, come sono venuto anche l'altro giorno, lunedì. Una settimana storico-religiosa, prima di Pasqua. È un segno dei tempi. Che questa Bibbia sia stata tradotta fedelmente e che siano veramente sotto ispirazione come i profeti, ciò che il profeta tal Geremia per dire, sì. Sia proprio quello, la verità, insomma, perché poi dicono che... Il metodo storico critico, l'analisi dei testi biblici e quindi anche l'esegesi, la traduzione, inizia in età illuminista, inizia durante la rivoluzione francese, anzi un po' prima per la verità, e insomma il Pio X Papa Sarto all'inizio del Novecento condanna il modernismo e condanna i modernisti, cioè teologi cattolici che vogliono utilizzare il metodo storico critico sulla Bibbia. Roncalli era amico dei modernisti e quindi è un amante della storia, Roncalli, insomma anche per la storia Roncalli secondo me ha avuto intuizioni, la storia intesa come ricerca, come metodo, ha avuto intuizioni interessanti. Roncalli. Sì. Roncalli era ad Ankara allora. Sì, e poi esatto, poi c'è la sua carriera diplomatica, sì, esatto. Lo dico una cosa solo, poi chiudo, ce ne andiamo. Anche perché mi sa che adesso... No, chiudo solo. io penso che una cosa buona sia quello che ha detto Gesù lì. Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Basta. Li chiudo. Ecco, Matteo 5, beati gli operatori di pace, ecco. I costruttori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio, gli operatori. La traduzione che è stata poi fatta è i pacifici, no? Come se la pace fosse una virtù intima, personale. No, qui è operatori, costruttori di pace. Cioè, l'azione. Quindi l'azione. Io ho chiuso. Grazie, diceva anche, se vuoi la pace, fai amore. Ma questo lo dicevano i romani. Bene, io penso che dovrei chiudere con dei ringraziamenti, ringraziare Andrea Sari per... Bravo. Grazie a voi. Per la...